Finora la testimonianza del carabiniere tedesco, che negli anni poi è diventato vice brigadiere, ma all'epoca dell'omicidio di Stefano Cucchi era uno dei carabinieri della stazione Appia e anzi uno di quelli che procedette all'arresto di Stefano Cucchi, la sua testimonianza nella doppia veste di superteste e di imputato ha confermato tutte le aspettative che c'erano intorno a questa udienza, perché Francesco Tedesco è uno dei tre imputati per il pestaggio, gli altri due carabinieri sono imputati per calunnia e falso, ed è quello che si è tirato fuori, che dopo 9 anni dai fatti ha deciso di raccontare una versione diversa e di fondamentalmente attribuire il pestaggio agli altri due colleghi, di Bernardo e d'Alessandro. La sua è stata una deposizione molto lucida, molto tagliente, perché ha restituito esattamente la dinamica del pestaggio, breve ma violentissimo, tant'è che lui dice di aver sentito esattamente il rumore della schiena e della testa di Stefano Cucchi che si fracassavano sul pavimento della stazione dove era stato portato per fare il fotosegnalamento. Ha raccontato anche di come fosse sotto shock in quel momento la persona arrestata e il contesto in cui, e probabilmente questa è la cosa più interessante, il contesto in cui si è verificato nell'ottobre del 2009 quell'arresto. Il vice comandante della stazione, maresciallo Mandolini, che è imputato a sua volta, è stato descritto come un carabiniere, diciamo, ossessionato dalla voglia di fare arresti, di mettersi in luce, di portare insomma dei trofei ai suoi superiori per poter progredire di carriera. Nello stesso tempo l'arma a Roma viveva un momento di grandissimo imbarazzo, perché era appena venuto alla luce lo scandalo di altri carabinieri che ricattavano il presidente della regione Lazio Marrazzo. Quindi con quel maresciallo che faceva pesare il suo grado, così è stato raccontato, non solo è maturato il clima che ha portato al pestaggio, ma nelle ore successive è già stato montato, diciamo, il meccanismo principale del depistaggio. Lui ha raccontato anche di aver presentato una denuncia il 22 ottobre, cioè immediatamente dopo aver saputo della morte di Stefano Cucchi, ma quella sua denuncia in duplice copia è scomparsa sia dall'archivio della stazione Appia e non è mai arrivata in procura proprio in virtù di quella sparizione. Lo spaccato che ci restituisce Tedesco, che ci sta restituendo perché in questo momento è in corso il controesame da parte degli avvocati difensori degli altri imputati, è quello di una enorme, di un clima di enorme paura montato contro di lui nel momento in cui poteva sembrare l'anello debole di quella catena, e le intercettazioni sembrano coerenti con quello che racconta, cioè un'intercettazione tra gli altri due imputati che dicono: speriamo che Francesco non faccia il fesso. Quindi da quel punto di vista lui restituisce lo spaccato di una catena gerarchica che era unanime, concorde nel sostenere la macchina dell'insabbiamento e del depistaggio. In questo momento gli avvocati della difesa gli stanno chiedendo perché ci ha messo così tanto, ci ha messo 9 anni a denunciare tutto, e appunto l'enorme pressione fisica e psicologica che lui avrebbe subito è al centro del suo racconto in questo momento. È sicuramente un'udienza che conferma il punto di svolta, il crollo del muro è stato chiamato dalla stessa Ilaria Cucchi, e la parola muro è risuonata più volte in aula. Quindi con la giornata di oggi, tra l'altro sempre oggi, si è vista anche la lettera, è stata pubblicata anche la lettera del comandante Nistri appunto Ilaria Cucchi, possiamo dire che oggi, diciamo, si è rotta quella omertà, appunto il depistaggio, ma anche poi l'omertà che ha riguardato tutto il corpo, tutta l'arma, è crollata con la giornata di oggi. È quello che ci auguriamo tutti. Io ho l'impressione che la lettera del generale Nistri sia più che altro, diciamo, una mossa obbligata, un tentativo di riconquistare la scena dopo molte udienze in cui molti colpi di scena hanno convalidato l'ipotesi accusatoria. Noi abbiamo avuto da ottobre a oggi numerosi carabinieri che hanno confermato tutti i dettagli del depistaggio. C'è stato un incontro prima della fine dell'anno tra Ilaria Cucchi e il comandante dell'arma e anche la ministra della difesa Trenta, e quell'incontro non è andato molto bene, tant'è che poi la stessa Ilaria aveva accusato Nistri e l'arma in qualche modo di fare mobbing sul carabiniere Casamassima, che è invece il primo ad aver testimoniato ad aver rotto, diciamo, il muro di omertà. La lettera di oggi era fondamentalmente un passaggio obbligato, diciamo, secondo me, perché la mole di elementi che suffragano l'ipotesi accusatoria del procuratore Musarò è talmente grande che in qualche modo l'arma dei carabinieri deve uscire dall'angolo.